Riflessioni da Marte. Questo su Marte questa settimana è riecheggiata da laggiù dal globo terracqueo una frase epica, già immediatamente scolpita nella storia: il meglio deve ancora venire. Ma no, non mi riferisco a quella detta dal rieletto presidente americano un po' abbronzato, bensì a quella pronunciata da Renzi, Matteo, e da lui scelta per la convention, ormai si dice così anche nella penisola italica, convention renziana a Firenze, che ci sarà nei prossimi giorni. Tanto per portarmi avanti, allora, ho allungato il telescopio verso la Terra dei Cachi per vedere cosa sta arrivando, almeno al momento. Tanto per cominciare, l'OCSE dà una buona notizia. L'Italia, col suo PIL, che sembra sempre qualcosa di depilatorio quando si sente, ma si tratta in realtà della ricchezza del paese, non certo in peli, l'Italia col suo PIL dice sarà lumaca sino al 2060. Ma dove sarete nel 2060? Comunque c'è chi dice che chi va piano va lontano, quindi letta con la filosofia del bicchiere mezzo pieno potrebbe essere una notizia quasi positiva, si dice per non piangere. Poi, ruotando il telescopio per vedere quale altro meglio deve ancora venire, ho visto che con la Spending Review, scusate, lo sapete che è più forte di me, la Spending Review mi evoca sempre Parlami d'amore Mario, con la Spending Review si stanno tagliando migliaia di posti letto negli ospedali. Ma mi chiedo, giusto così per curiosità, i letti li sfilano direttamente da sotto i malati o aspettano magari che si alzino per andare a fare la pipì e zac, li fanno sparire in 448? Volgo allora il telescopio altrove, sempre sul territorio italico, e mi avvedo che non solo la casta continua ad avere cataste di privilegi, nonostante l'indignazione generale e i proclami roboanti, ma che ovunque ti giri ci sono i figli dei banchieri che ereditano il posto del padre, i familiari dei ferrovieri che viaggiano in treno a gratis, i docenti di religione che guadagnano più di chi insegna matematica, forse perché sono più vicini al divino, potrebbe essere questo. E quindi viene da chiedersi, ma quand'è che verrà sto meglio, che deve ancora venire? Ma una luce si vede in fondo al tunnel, e non è un treno, eh? Ah, ecco, è perché la Camera ha cancellato la cosiddetta operazione Celibui, con la quale il governo voleva spegnere le luci nelle città dopo una certa ora, quindi la luce torna. Ma la vera speranza viene dalla scoperta di uno scienziato americano, l'astronomo Neil deGrasse Tyson, il quale, al termine di una ricerca che lo ha appassionato per mesi, ha scoperto che Krypton, il pianeta di Superman, esiste. E quindi vuoi vedere che esiste pure Superman, e allora sarà mica che il meglio che deve venire, Superman, sei proprio tu. Tuo fa l'americano, americano, americano, sienta me chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca baseball, mei sorti peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma?